Va da sé che queste riflessioni sono rivolte a chi è diventato figlio di Dio mediante un atto di fede in Cristo Gesù, ma le verità spirituali non si possono sempre limitare a uno schema mentale, perciò ciò che è rivolto ad un credente a volte può essere valido o utile anche a chi non crede. Come esempio, possiamo ricordare la promessa di Gesù che i figli di Dio sarebbero stati guidati dallo Spirito Santo. Giovanni 3.8. Ma a volte anche gli increduli hanno parlato guidati dallo Spirito Santo senza saperlo. Giovanni 11.51. Così, di queste riflessioni possono farne tesoro tutti. Spesso per poter descrivere certi aspetti del nostro rapporto con Dio dobbiamo ricorrere a delle immagini. Gesù è il buon pastore e noi siamo le pecore. Dio è nostro padre e noi siamo i suoi figli. Gesù è la vite e noi siamo i tralci. Vi è però un'altra relazione con Dio che non viene messa spesso in evidenza per vari motivi, e cioè pregare come servi. Il primo di questi è che si tratta di una realtà ormai scomparsa nella nostra società occidentale. Un altro è che essere servi e pregare Dio come tali non è il tipo di relazione confacente alla nostra natura egoista e superba. Troviamo questo aspetto nel breve Salmo 123. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco come gli occhi dei servi sono rivolti alla mano dei loro padroni, e gli occhi della serva alla mano della sua padrona, così i nostri occhi sono rivolti all'Eterno, Dio nostro, finché Egli abbia pietà di noi. Abbi pietà di noi, o Eterno, abbi pietà di noi, perché siamo oltremodo sazi di disprezzo. L'anima nostra è oltremodo sazia dello scherno, degli arroganti e del disprezzo dei superbi. Spesso per comprendere alcune immagini occorre viverle o almeno poterle vedere esprimersi nella vita. Se una persona mi dice che soffre come chi ha subito la perdita di un figlio, in parte posso capire che cosa mi comunica perché ho visto molte persone soffrire per questo, ma la mia comprensione è solo teorica, una pura comprensione intellettuale. Ma se io stesso avessi fatto questa esperienza, percepirei la sua sofferenza in modo diverso. Oggi difficilmente possiamo capire cosa significa rivolgersi a Dio come dei servi, perché noi non siamo dei servi e perché non è una realtà intorno a noi, almeno nell'Occidente. Eppure, la parola di Dio parla molto dei servi, e se questa immagine non ci è chiara, molto probabilmente abbiamo perso o perdiamo parte del messaggio che Dio ci voleva trasmettere. Per comprendere chi era un servo, occorre leggere una parabola nella quale Gesù in poche parole ne illustra le caratteristiche. Ora chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare, il gregge gli dirà: quando è tornato a casa dai campi, vieni subito a metterti a tavola. Non gli dirà piuttosto: preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi affinché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai tu. Ringrazierà forse quel servo perché ha fatto le cose che gli erano state comandate? Così anche voi, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Luca 17.7.10. Questa parabola merita di essere meditata molto più spesso di quello che facciamo. Credo che facendolo alla fine la nostra vita cristiana sarebbe diversa e molto più abbondante. Per le riflessioni che esporrò mi servirò anche di quanto ha scritto Roy Hessian nel suo libro La via del Calvario. Nell'Antico Testamento vi erano due tipi di servi. A. I servi temporanei, cioè coloro ai quali si corrispondeva un salario e si accordavano alcuni diritti. B. I servi a vita che non ricevevano alcun compenso. Questi erano del tutto privi di ogni diritto e non avevano alcuna possibilità di diventare liberi perché erano di esclusiva proprietà del loro padrone. Nel Nuovo Testamento troviamo spesso l'espressione servitore di Gesù Cristo. E la parola greca che si traduce con servitore non ha il senso di servo temporaneo, ma di schiavo. Il cristiano, quindi, quando viene chiamato servo, viene indicato nel senso di schiavo, cioè colui che appartiene al suo padrone, Gesù Cristo. A nessuno piace essere ritenuto un servo schiavo, ma non va dimenticato che innanzitutto il servo per eccellenza è stato il Figlio di Dio, cioè Gesù Cristo. Filippesi 2.6.7. Se Gesù prese la forma di servo, nonostante fosse Dio, se egli soddisfò totalmente la volontà di suo padre con un annichilimento totale, se accettò la malvagità degli uomini come un servo senza diritti per poter diventare il mezzo di salvezza, nessun essere umano può pretendere di avere un altro ruolo diverso dal figlio di Maria Vergine. La grandezza della volontà di Dio non sta solo nella perfezione della sua volontà, ma consiste anche nel comandare ciò che Cristo, prima di tutti, mise in pratica. Solo gli uomini malvagi impongono pesi che non vogliono portare. Ma la volontà di Cristo Gesù è una realtà che scaturisce dalla sua stessa esperienza. Perciò, per un cristiano, vivere come un servo schiavo è un onore. Premesso l'onore di assomigliare a Cristo Gesù, passiamo ad esaminare la parabola e vedere le caratteristiche del servo come schiavo. A. La prima caratteristica del servo schiavo è che deve accettare che si esiga molto da lui, che si esiga una cosa dopo l'altra senza tener conto della sua persona. Infatti, dopo una giornata di lavoro, il servitore dovette subito preparare da mangiare al padrone. Il servo non brontolò, non discusse, non fece valere il suo diritto affermando: «È tutto il giorno che lavoro e perciò ho il diritto di riposare». La seconda caratteristica del servo schiavo è che dopo aver fatto molto non deve aspettarsi alcun ringraziamento. Infatti, dalla bocca del padrone non esce una parola di elogio per quello che il servo aveva fatto. Anzi, lo tratta duramente e gli chiede di continuare a lavorare. C. In terzo luogo, dopo che il servo ha fatto il suo dovere, non deve incolpare il padrone di egoismo. Se noi siamo coscienti di essere dei servi schiavi, non incolperemmo nessuno per come ci trattano. In questo modo avremmo occasione di identificarci maggiormente con Gesù. D. La quarta caratteristica del servo è che dopo aver fatto tutto il possibile non deve inorgoglirsi. Non deve sentirsi soddisfatto. Anzi, deve confessare di essere un servitore inutile. Forse noi facciamo tante confessioni davanti a Dio, ma molto probabilmente questa è quella meno pronunciata. E, infine, il servo, dopo aver fatto tutto quello che gli era stato ordinato, deve dire che ha fatto ciò che doveva fare, cioè che era in obbligo di compiere. Tutto questo è troppo umiliante? Direi che rispecchia esattamente la realtà di ogni cristiano, perché dopo che egli ha lavorato nei campi meno, cioè ha fatto ciò che deve fare nella vita meno, dopo che ha servito il suo padrone meno, cioè dopo che si è occupato delle cose di Dio meno, il cristiano deve rendersi conto che non ha fatto altro che il suo dovere. Se questo fosse il pensiero dominante nelle nostre riflessioni, se fosse il nostro atteggiamento quotidiano, il nostro appressarci a Dio in preghiera sarebbe molto diverso. Inoltre, non esisterebbe per noi lavoro, abnegazione, sacrifico che possa inorgoglirci, che ci faccia sentire meritevoli di qualcosa. Purtroppo noi pensiamo di essere meritevoli, e non solo questo, ma ci riteniamo anche delle persone che hanno ragione di essere meritevoli. Così si è espresso lo scrittore Lewis nel suo libro I Quattro Amori. Non appena arriviamo a credere che Dio ci ama, subito nasce l'impulso a credere che ciò avvenga non perché Egli è amore, ma perché noi siamo intrinsecamente amabili. Quando poi arriviamo a capire che questo è sbagliato, allora com'è stato sublime il nostro pentimento. Quando ci rendiamo conto che anche questo non è giusto, allora offriamo a Dio, perché l'ammiri, la nostra umiltà. Di certo quella gli sarà gradita, ma se neanche quella, allora gli offriamo il nostro riconoscimento accorto e sottomesso che manchiamo di umiltà. E riguardo al nostro rapporto con gli altri, continua col dire: tutti noi siamo oggetto di carità, in quanto in ciascun di noi vi sono alcuni aspetti che gli altri spontaneamente non sono portati ad amare. Non è colpa di nessuno se amare questi lati della nostra personalità richiede uno sforzo volontario. Si può amare con naturalezza soltanto ciò che per natura è amabile. Non ci è altra possibilità se non quella di essere perdonati, compatiti, e ciò nonostante amati per mezzo della carità. Queste considerazioni dovrebbero togliere in ognuno di noi ogni illusione di meritare qualcosa, di credere, di avere il diritto di essere amati, di essere esauditi e di avere anche il diritto di essere offesi, se ci trattano come dei servi o come schiavi. Solo dopo essere arrivati a queste conclusioni possiamo comprendere il Salmo che abbiamo letto. Se abbiamo questa opinione di noi stessi, va da sé che quando ci rivolgiamo a Dio in preghiera, abbiamo tutto un altro spirito. Non pretendiamo di essere esauditi, ci rivolgiamo a Lui senza pensare di aver nessun diritto, anche se oggi siamo stati bravi o siamo migliori del nostro fratello, ma il nostro appressarsi a Dio è come quello dello schiavo. Servo che sa di non aver diritto di nulla, neppure della pietà, e se non riceviamo ciò che abbiamo chiesto, Dio non ci compie nessun torto, non ci deve nulla. Noi siamo e saremo sempre, come disse Gesù, servi schiavi inutili. Questo aspetto non toglie certamente la verità che chi pone fede in Cristo diventa un figlio di Dio, ma è un figlio che vive come un servo. Se Cristo Gesù è Dio ed ha vissuto come servo, quanto più lo possono fare le sue creature. Vivere e pregare come servi non inficia la natura dell'uomo, anzi, eleva la creatura a una maggiore somiglianza con il Cristo e non vi è maggior onore di questo. Per togliere in noi questo insanabile senso di giustizia, ancora una volta occorre considerare come Gesù, il Re dei Re, si sia fatto servo dei servi per amore di tutti noi. Ne troviamo descrizione anche nel Vangelo di Giovanni al capitolo 13. Or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E, finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti. Poi, preso un asciugatoio, se lo cinse. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. E, da tenere presente che al tempo di Gesù chi la lava i piedi erano solo le donne o i servi schiavi, ma nessun maestro avrebbe lavato nel modo più assoluto i piedi ai suoi discepoli, eppure Gesù fece anche questo. I discepoli erano oltremodo confusi per il comportamento del loro maestro, come del resto si è confusi quando la verità ci arriva totalmente nuova. Tanto è vero che Pietro non voleva che Gesù lavasse i suoi piedi, ma ancora una volta il figlio di Dio fatto si servò a maestro e ai suoi discepoli. Così, dopo aver lavato i piedi, Gesù riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: «Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi, gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché come ho fatto io facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate». 13.1.2.17. Il fatto di un maestro che lava i piedi ai suoi discepoli si introduce in modo scioccante in una cultura assolutamente non avvezza a questo. Ma esso rappresenta la chiave per comprendere perché questi uomini in seguito abbiano patito le più atroci sofferenze a causa della predicazione del Vangelo. Questo avvenne perché tale messaggio annuncia niente di meno che Dio non si è solo fatto uomo, ma un servo schiavo, fino a morire come un malfattore sulla croce. Proprio perché Gesù è Dio e si è fatto servo per eccellenza, allora tutti i discepoli di Cristo si devono rivestire di questa caratteristica, prendendo esempio dal loro maestro. Gesù ha detto che il servo non può essere trattato meglio del suo padrone. E se così è, questo deve togliere ogni desiderio nel credente di ricevere onori e gloria. Quando nella sua mente il cristiano si impossesserà di questa verità, allora vivere una vita di servizio priva di gratitudine da parte di alcuno, una vita non gratificata, sarà una gioia, non perché sia piacevole, ma perché egli realizzerà ciò che Gesù ha sofferto. Questo significa essere partecipi di Cristo. Ed essere partecipi di Cristo non si riferisce solo alle benedizioni, ma anche alle umiliazioni. Gesù disse ai suoi discepoli che sarebbero stati beati, cioè felici, quando avrebbero fatto quello che lui aveva detto. Mettendo ancora una volta in enfasi che non è solo il sapere che rende giusto l'uomo, ma l'operare. A chi ascolta resta solo la scelta di pregare e vivere come servo e ringraziare Dio perché, dopo aver fatta la sua volontà, è vero che rimane un servo inutile, ma comunque sempre un servo del Dio vivente. Meglio essere servi schiavi di Dio che rimanere schiavi del diavolo, seppur pienamente convinti di essere un libero padrone. Purtroppo, anche quando un credente realizza una vita al servizio degli altri, è tentato ad avere un atteggiamento sbagliato. Atteggiamento questo, mostrato da Marta, la sorella di Lazzaro. Così è descritto l'episodio l'Evangelista Luca. Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio. E una certa donna, di nome Marta, lo ricevette in casa sua. Ora ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù, rispondendole, disse: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Luca 10.3.8.42. Marta era una donna che oggi potremmo definire sanguigna, cioè una donna decisa, pratica, sempre pronta al servizio. Proprio in un momento nella quale realizzava di essere una serva schiava, commette l'errore possibile a chi si trova nella posizione di servizio, e cioè quello di giudicare il prossimo. Molti hanno ravvisato l'errore di Marta nell'affaccendarsi nel servire Gesù e i discepoli che erano con lui, ma, come abbiamo visto, questo non è un errore, anche perché se non car e chi serve non si può essere serviti. L'errore di Marta è stato duplice: ha giudicato sfaccendata sua sorella solo perché ascoltava Gesù, e ha dato ordini a Gesù di cosa doveva dire a sua sorella. Lo scatto di nervosismo di Marta ha messo in evidenza alcuni suoi peccati nascosti, e cioè quanto si sentisse sola, amareggiata, frustrata, gelosa, e quanto si autocommiserasse. Questo è il pericolo nel quale cadono coloro che servono. Quando Gesù chiamò Pietro a servirlo, chiese a Gesù che ne sarebbe stato di Giovanni, e la risposta di Gesù non si fece attendere: «Che te ne importa? Tu seguimi». Stesso errore fecero le persone narrate nella parabola dei servitori delle diverse ore, dove chi aveva lavorato di più si lamentò e giudicò sia il padrone sia coloro che avevano lavorato di meno. La malattia e mania di interessarsi all'opera altrui per farne un giudizio morale rende i servi di Cristo non più servi, ma degli inopportuni giudici. Proprio in un contesto di servitori che venivano giudicati, l'Apostolo Paolo scrisse queste sante parole: «Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio». 1 Corinzi 4, 5. A chi serve Cristo come uno schiavo, non resta che di rallegrarsi di avere la grazia di poter servire il Salvatore del mondo e di attendere il proprio premio. Tutto il resto non è di competenza sua. Giugno 2006, Ellero.